Lei ha già citato le antiomelaridici che mi si attorciglia la lingua. Il settore delle pensioni negli ultimi anni è stato intervistato. Vedi che oggi Antocianine, Mimma ci chiama da Bergamo e Fernando dalla provincia di Cremona. Sì, oggi buongiorno, oggi abbiamo le papere. Mimma. Buongiorno. Buongiorno. Si impaperi un po' anche lei. Ecco, la prego, per solidarietà. La felicità. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Se sei un amico ti stringo la mano, se chiedi un aiuto ti tendo la mano. Oggi a Cuore e denari andiamo a scuola di igiene. A proposito di mani, la prima regola che ci viene insegnata sin da piccolo è di lavarci bene le mani, talmente fondamentale che anche l'UNICEF il 15 ottobre scorso ha celebrato la giornata mondiale per la pulizia delle mani, ricordando che lavare le mani con il sapone bene e poi asciugarcele adeguatamente è una regola che protegge da molte infezioni. E proprio di igiene parliamo oggi, in modo particolare dei gesti di igiene che dedichiamo alla nostra bocca, perché la salute del cavo orale è fondamentale non solo per la bellezza del nostro sorriso, ma per la salute generale, in particolare per la salute del nostro cuore. 800 24 00 24 se volete prenotarvi, se volete raccontarci quanto tempo dedicate alla cura della vostra bocca, ma se volete anche ispezionarla con noi con l'aiuto dei nostri esperti. Nella seconda parte del programma, invece, per la pagina di denari, parliamo di un percorso che non porta con sé molto i sorrisi, più che altro potremmo dire che richiede di stringere invece i denti. Mi riferisco al divorzio, che resta una procedura lunga e costosa, ma che se non altro da qualche giorno è diventato un po' più facile, metto il facile tra virgolette, grazie all'approvazione definitiva da parte del Parlamento di un decreto legge che conferma la possibilità di divorziare davanti a un avvocato o in comune senza dover ricorrere al tribunale. Dopo il GR delle 12 commenteremo questa notizia con l'avvocato Gianettore Gassani, che ci aiuterà a rispondere alle vostre domande. Con lui torneremo naturalmente a capire cosa cambia, cosa invece resta come prima. 800 24 00 24, iniziate a prenotarvi anche per questo argomento. Chi prova a ridere col naso fa più o meno così, orrendo. Chi prova a ridere tra i denti potrà solo un serpente imitar. Cheese, sorridete anche voi, chiamateci, magari parlando al nostro numero verde con un sorriso. Anche la voce si modifica se noi sorridiamo, diventa più piacevole, più gradevole, più bella. Aspettiamo le vostre chiamate, le vostre domande, i vostri racconti. Qua in studio con me abbiamo già subito il nostro primo ospite, che ci aiuterà a vederci un pochino più chiaro, ci aiuterà a giocare con la prevenzione per evitare di andare a sederci dal dentista. Buongiorno al professor Alessandro Nanussi, che è odontoiatra e responsabile del reparto di gnato, posturologia e dolore cranio-facciale al San Gerardo di Monza, Università di Milano Bicocca. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. Ci spiega innanzitutto, prima di portarci davanti allo specchio e con lei ripasseremo le regole di igiene, ci spiega innanzitutto di che cosa si occupa. La sua qualifica sembra uno scioglilingua: gnato, posturologia e vabbè, dolore craniofacciale, questo lo capiamo. Di che cosa si occupa il professor Nanussi e come ci può aiutare nella puntata di oggi? Noi, sai che gli esperti li spremiamo come dei limoni, quindi sono qua apposta. Volentieri. Beh, l'odontoiatria è una disciplina specialistica, però all'interno di questa torta ci sono delle fette un po' particolari, dal sapore particolare. Noi ci occupiamo in particolare dei problemi funzionali, dei problemi di pazienti che hanno cefalea, problematiche posturali, degli sportivi che hanno bisogno di ottimizzare la loro performance. Cerchiamo quindi di fare qualcosa per far stare meglio le persone anche da un punto di vista della salute generale. Insomma, è giusto che l'odontoiatra oggi veda il paziente un po' come un insieme di organi e apparati che lavorano collaborando fra di loro. Certo. Non ci occupiamo più soltanto del singolo dente. È difficile oggi trovare un dentista che si occupa esclusivamente del dente. C'è sempre una visione che, con una parola molto moderna, viene definita olistica del paziente. Quindi anche noi oggi ci occuperemo del cavo orale, di denti, gengive, delle mucose, della lingua, ma anche cercheremo di capire come serriamo la bocca e come chiudiamo, com'è il nostro morso. 800 24 00 24. Professor Nanussi, in apertura abbiamo sottolineato che la salute della nostra bocca è strettamente collegata anche a quella del nostro cuore. È vero. Ci spiega questa relazione, che così ci sottolinea e ci aiuta a capire bene l'importanza di dedicare le cure quotidiane alla nostra bocca, a questa igiene orale che spesso viene fatta per troppo breve tempo, in modo un po' superficiale e non tutte le volte che sarebbe necessario fare. Certo, per anni in effetti si è pensato che i batteri, ad esempio, che provocano l'endocardite batterica del cuore, una malattia importante, fossero dei parenti dei batteri che abbiamo in bocca. Si è poi scoperto, grazie a studi sul DNA dei batteri, che invece questi batteri sono esattamente gli stessi che noi abbiamo intorno ai nostri denti, sul colletto vicino alle gengive. Colletto dei denti e margine gengivale è il cancello di entrata per i germi verso l'organismo. Quindi è come se bisogna stare attenti a ridurre il più possibile la quantità di batteri che abbiamo in bocca. Ovviamente non possiamo sterilizzare la bocca, è un messaggio importante, non si abusa dei colluttori disinfettanti, si deve però praticare un'efficace prevenzione a casa e in studio dal dentista. In studio dal dentista, ciascuno di noi vorrebbe evitare di allungarsi nella poltrona del dentista, i costi anche sono alti in questo momento di crisi, per questo noi oggi vogliamo dedicare una puntata alla prevenzione. Ma professor Nanussi, una o due sedute di igiene orale sono necessarie anche per chi ha una bocca con un sorriso all'americana, è corretto? Certo che sì, assolutamente. Infatti, passati 35 anni, la nostra flora batterica orale purtroppo vira e abbiamo una prevalenza di batteri di tipo più aggressivo per il nostro parodonto. Parodonto che tende a comportarsi in modo molto subdolo, quindi la malattia parodontale colpisce senza preavvisare e spesso il paziente si accorge quando ormai il danno è fatto. Quindi è come, anche perché l'igienista può così intercettare precocemente il problema e aiutarci a risolverlo limitando i costi, che non è di secondaria importanza. Allora, a proposito di cuore e a proposito di costi, voglio leggervi subito due messaggi che sono arrivati al 349-238-6666. A proposito di cuore, Antonio ci scrive che sua figlia ha la valvola mitralica bicuspide, i dottori dicono di curare e porre sempre attenzione ai denti, e quindi questo sottolinea ancora una volta l'importanza della salute orale legata alla salute del nostro cuore. Quanto ai costi, un ascoltatore o ascoltatrice ci racconta che ieri sera ha portato la figlia dal dentista per curare una sola carie, totale euro 168, e commenta: ci credo che qualcuno non riesce a coprire queste spese. Allora, noi oggi di costi non vogliamo parlare, ma vogliamo assolutamente invitare i nostri ascoltatori a mettersi davanti allo specchio e utilizzare quelli che possiamo considerare i moschettieri dell'igiene, che sono il dentifricio, il colluttorio, lo spazzolino e il filo interdentale. Spesso li usiamo, ma non li usiamo nel modo corretto, quindi fatevi avanti e soprattutto diamo il benvenuto oggi al professor Ernesto Di Pietro, osteopata, professore di biomeccanica della colonna vertebrale all'Università di Lugano. Buongiorno. Ma buongiorno a voi. Eravamo un po' in pensiero perché non la vedevamo arrivare, ma eccolo qua bello sorridente con lei. Andiamo subito davanti allo specchio, sì, perché parliamone. C'è chi dice, si legge su internet, lo leggiamo sui giornali al mattino, di dedicare qualche minuto proprio davanti allo specchio e di iniziare a sorridere. Questo tira anche sull'umore, ma sembrerebbe aiuti anche a spianare un po' le rughe o almeno a prevenirle. Con lei oggi proveremo proprio a fianco del professor Nanussi a utilizzare la seduta quotidiana di igiene come una sorta di palestra per fare un po' di ginnastica facciale e, per chi non ha rughe, per sciogliere magari quelle tensioni che tutti noi, giovani e meno giovani, avvertiamo proprio nella zona del collo. Allora, sorridiamo davanti, allora un sorriso sì. non lo si, vero? Ma sì, un, meglio un bene. Sorriso in più che uno in meno. Solo bene, assolutamente sì. Due grandi alleati al mattino che ci fanno veramente bene. Uno è lo specchio e l'altro è tanta autoironia. Cioè, mettersi davanti allo specchio, guardarsi per quello che siamo in quel momento e iniziare a fare la smorfia più brutta che potremmo fare. Cioè, il primo esercizio proprio è esagerare il quanto non ci vediamo proprio bellissimi. Sì, beh, al esagerare mattino è difficile questo. Vedersi belli. Appunto, esageriamo ancora di più, magari ci vedrà anche da ridere, e immediatamente dopo proviamo a fare una faccia come ci piacerebbe averla. Cioè iniziare proprio magari a portare fuori le labbra, in questo modo togliamo le rughe. A questo punto immaginiamo queste due posizioni e continuiamo a farle per una decina di volte, passare dal peggio al meglio, dal peggio al meglio. Quindi quello che lei ci suggerisce di fare sono le boccacce. Le boccacce, immediatamente una faccia molto bella, come ci piacerebbe averla in quel momento, sensuale, allegra, non importa. L'importante, sai cos'è, Nicoletta? L'importante è, usando appunto tanta autoironia, essere contenti in quel momento e fare arrivare sangue. Deve arrivare sangue, linfa, nel nostro derma del viso. Questo permette di poter porre freno agli insulti che il tempo ci dà sul nostro viso. 800 24 00 24, andiamo subito a sentire Fabio che ci chiama da Bergamo e Isabella da Milano. Voglio anticiparvi di nuovo le papere, ma va bene così, che oggi parleremo non solo della bocca degli adulti, ma anche di quella dei nostri bambini. E stanno arrivando già numerosi messaggi, quindi anche se volete parlarne con noi dei dentini da latte, di denti che magari cadono e poi tendono, sembra che non crescano più i famosi denti davanti, chiamateci. Fabio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, grazie. Grazie a lei. Io volevo portare la mia esperienza per quanto riguarda appunto la... quanto la salute dei denti, quindi sia la masticazione, la respirazione, la deglutizione, poi influisca anche sul resto del corpo. Mi ha fatto piacere sentire prima gli ospiti in studio appunto che hanno parlato di un approccio olistico, sì, perché è quello che ho scoperto anche io, diciamo, quest'anno. Io vengo da una serie di problematiche alla schiena, posturali, che non riuscivano ad essere risolte. L'ultima volta scoraggiante in cui sono andato a un fisiatra mi ha detto: lei è sano, eventualmente vada da un reumatologo, se le dice qualcosa torni da me. Io ho pensato, torno da lei per farmi dire ancora che io sono sano? Com'è possibile? Io sto in piedi, mi fa male la schiena, dopo 10 minuti che sto in piedi ho problemi all'anca. Quanti anni ha, mi scusi Fabio? Ho 32 anni. 32 anni. Esatto. Giovane come l'acqua, si direbbe, no? Esatto. E allora Fabio, lei, la sua esperienza qual è? È andato la mia da... esperienza è che ho scoperto la dentosofia, sì, che tradotto è proprio la saggezza dei denti, che ha un approccio completamente diverso da quello che ho sempre conosciuto io sul, diciamo, approccio di cura dei denti. E attraverso uno strumento che si chiama attivatore polifunzionale di Sulle Besom, che è stato riportato in auge da un dentista francese che si chiama Michel Montaud, sì, si riesce ad attivare tutta una serie di funzioni della bocca che riportano poi dopo un equilibrio. Io già dopo una settimana che l'ho utilizzato... Era nuovo. Nuovo in che senso? No, lei si sentiva come nuovo, senza dolori. Quindi... Ma non solo senza dolori, anche con un'energia diversa. Infatti è stata proprio una scoperta... pazzesco dal mio punto di vista. Guardi Fabio, già insieme al professor Annussi e al professor Di Pietro avevamo già fatto una trasmissione, se vi ricordate anche voi, vero? Sì, certo. In cui avevamo stressato molto la relazione che c'è tra i nostri denti e la nostra bocca, le articolazioni del cavo orale e invece le articolazioni del nostro corpo. Quindi questa relazione è provata, naturalmente va fatto prima una diagnosi, bisogna affidarsi, certo, a mani esperte. Professor Nanussi, riguardo alla dentosofia di cui parlava il nostro ascoltatore, ci vuole raccontare rapidamente che cos'è e se ci sono delle conferme scientifiche? È un approccio funzionale, ce ne sono diversi, ci sono molte scuole in questo senso e non esiste nessuno che ovviamente abbia in mano le tavole della legge dei rapporti funzionali fra l'occlusione e la postura. Però tutto ciò che attiva il sistema, lo attiva in modo positivo e possibilmente mette un limite a tutti quei parametri che sembrano non funzionare bene, meglio misurarli prima, noi amiamo molti test strumentali per questo, è sempre il benvenuto. L'approccio dentosofico è uno degli approcci che vengono utilizzati. Il punto è sempre nella diagnosi dello specialista. In genere una diagnosi di gruppo, perché l'approccio di un problema che ha molti fattori deve essere multidisciplinare. Da qui la collaborazione anche con professionisti di discipline affini. Isabella, buongiorno, ci chiama da Milano, poi pronti con spazzolino, dentifricio, colluttorio. Io sto leggendo davvero tantissimi messaggi al 349-238-6666. Segno che, insomma, questi, possiamo chiamarli moschettieri, no, professor Annussi, della nostra igiene, con che frequentiamo tutti i giorni, ci danno ancora qualche piccolo problema, qualche dubbio c'è. Isabella, buongiorno da Milano, benvenuta a lei. Buongiorno, grazie e complimenti per la trasmissione. Involontariamente mi ricollego un po' a quello che si stava dicendo, nel senso che il mio problema è una figlia che ha 16 anni e che ha una genesia degli incisivi laterali superiori, dell'arcata superiore. Dopo varie vicissitudini abbiamo fatto la scelta di aprire gli spazi e creare appunto gli spazi sufficienti per poter in questo momento mettere dei due piccoli Maryland, e poi successivamente ci è stato consigliato l'impianto. Per ora prosegue tutto relativamente bene, insomma i due incisivi posticci, diciamo così, sono stati messi e ovviamente c'è una minima differenza tra i denti definitivi e questi due che sono lì in attesa degli impianti. La domanda è intanto se la scelta comunque di aprire gli spazi anziché chiuderli come poteva essere vista dai suoi ospiti, e poi se successivamente alla luce degli impianti che necessariamente dovranno essere messi mia figlia potrebbe avere, visto che è una cosa che dovrà portarsi dietro tutta la vita, potrebbe avere problemi sia a livello meccanico che di masticazione che nel tempo proprio sull'osso. Allora, io giro la domanda al professor Annussi, anche se la domanda è abbastanza complessa e soprattutto richiede sicuramente una visita, dovrebbe vedere la paziente, come si dice, no? Però professor Annussi, mi sembra che la nostra ascoltatrice abbia espresso le sue preoccupazioni riguardo al futuro, insomma, con questi impianti, ed è una preoccupazione che hanno molte persone, non solo come la nostra ascoltatrice, che devono sostituire il dente con un impianto. La domanda è: quanto dura? Potrebbe dare dei problemi? Come faccio a prevenirli? O ci sono dei segnali che mi possono far capire che è quell'impianto lì che mi crea dei problemi? Allora, la prima cosa che mi sento di dire a una mamma è che non bisogna avere paura di ciò che è complesso. La nostra vita in questo momento è complesso, le terapie sono spesso complesse e ci sembrano distanti, da qui tanti dubbi che si percepiscono nel tono di voce. Certo, una terapia complessa, un aereo va guidato da un pilota esperto, una terapia complessa come in questo caso, nel quale a volte è il genitore che si trova a dover decidere se chi gli fa una proposta è corretta o no, si fa tanti dubbi. Essenzialmente il dubbio principale qui è: chiudo gli spazi o apro gli spazi? È qualcosa che è di pertinenza a metà strada fra quella odontoiatrica e quella osteopatica, perché è l'insieme del soggetto che va valutato, quindi senza vedere delle lastre, vedere la persona nella sua interezza. Dopodiché non abbiamo paura degli impianti, ma certo è un'ottima soluzione per avere finalmente il dente che mancava. L'impianto non è la terapia del dente brutto o del dente danneggiato, l'impianto è la terapia del dente che manca. Non si tolgono i denti per mettere gli impianti, cosa che invece avviene in tanti centri all'estero. Cuore e denari. Io credo che tu mi debba delle scuse, Barbara. Se hai qualcosa da dirmi, io sono qua. Io voglio il divorzio. No, ma che divorzio? Ma cosa dici? Neanche per sogno. Non sai quanto ci ho riflettuto. Io proprio non voglio più essere sposata con te. Ma perché mai vuoi divorziare? Insomma, ti ho fatto qualcosa? O non ti ho fatto qualcosa? Non riesco a specificare i motivi, Oliver. Beh, provaci! Non ci voglio provare! Insomma, io in caso dovrei chiedere il divorzio. Voglio dire, quello portato all'ospedale in preda a una grave... indigestione. Sì. Sei una grande esperta nell'arte di farmi passare da cretino. 800 24 00 24, avete vissuto una separazione o un divorzio? Oltre agli aspetti umani e affettivi, cosa vi ha pesato o vi spaventa di più di questo percorso? I costi economici, i tempi, le lunghe attese oppure le difficoltà burocratiche? Raccontatecelo, potete mandarci anche un messaggio al 349-238-6666 oppure potete inviarci una mail. A partire dalle 12 con l'avvocato Gianettore Gassani faremo il punto su cosa è cambiato da giovedì scorso con l'approvazione di quello che potremmo chiamare il divorzio facile. Basterà presentarsi davanti a un avvocato per mettere la parola fine. Continuate a prenotare i vostri interventi. E a proposito di sensibilità, i denti spesso sono sensibili, avvertiamo quella sgradevole sensazione, i denti li sentiamo, arrivano anche a fare male quando beviamo qualche cosa di molto freddo, di molto caldo. Oggi andiamo a scuola di igiene, ma andiamo anche a scuola di bellezza e di buona postura. Abbiamo due esperti, il professor Nanussi e il professor Di Pietro. Molte le domande, io voglio iniziare a leggervi alcuni sms che stanno arrivando proprio a come lavarsi i denti ogni quanto. Lavarsi i denti, ci scrive un ascoltatore, ho letto che bisogna farlo almeno 30 minuti dopo aver mangiato, è corretto? Sì, assolutamente è corretto. Infatti, dopo aver mangiato, abbiamo una possibilità di avere una acidità della bocca eccessivamente alta, cioè il pH della bocca si abbassa, lo smalto è stato un po' aggredito dalle sostanze potenzialmente acide che abbiamo ingerito e quindi è più delicato, potrebbe soffrire dei colpi dello spazzolino. Quindi in 30 minuti lo smalto si ricalcifica, la nostra saliva è ricca di sali minerali, e questo consente di spazzolare i denti senza rischiare di danneggiarli. Evitiamo comunque gli spazzolini duri. Gli spazzolini duri, arriveremo naturalmente alla scelta dello spazzolino manuale oppure elettrico. Spazzolini duri, noi come facciamo a scegliere lo spazzolino adatto per la nostra bocca? E poi lo spazzolino lo useremo anche per il professor Di Pietro, che ci aiuterà certo ad utilizzarlo per fare una ginnastica per i nostri muscoli. Spazzolino non duro, quindi noi che cosa dobbiamo leggere e quanto deve essere grande la testina? Allora, non dimentichiamo che ciò che dobbiamo spazzolare, evitiamo immagini sgradevoli, è morbido, quindi non c'è bisogno di usare la smerigliatrice per pulire i denti. Evitiamo anche gli spazzolini di setole naturali, perché sono potenzialmente colonizzabili dai batteri, il manico di legno nell'umidità del bagno, umido di saliva, immaginiamo cosa ci cresce sopra. Negli spazzolini sintetici, con una testina piccola per arrivare in tutti gli angoli della bocca, basta che siano medi o morbidi, secondo il consiglio del proprio dentista e secondo anche il tipo di dentizione che abbiamo. Ci sono spazzolini anche per i bambini piccolissimi, per imparare a giocare con lo spazzolino, che deve diventare uno strumento di igiene veramente quotidiano. Quindi anche per i bambini piccolissimi con i dentini da latte usiamo lo spazzolino, il bambino può imparare a usare lo spazzolino come gioco, naturalmente sotto la guida di un adulto, professor Nanussi. Sotto la supervisione di un adulto, sempre. Arriveremo poi a che cosa mettere sopra il nostro spazzolino, ma ancora prima una domanda, professor Nanussi, che voglio fare anche agli ascoltatori. In famiglie numerose, almeno non so, 4-5 persone, gli spazzolini possono, poi una volta utilizzati, vengono riposti. C'è chi usa parlo degli spazzolini manuali, c'è chi usa il classico bicchiere, li mette lì, c'è chi utilizza magari il cappuccio per lo spazzolino, chi invece li depone in una specie di asticella con tanti forellini, in modo che ciascuno spazzolino abbia il suo spazio. 800 24 00 24, raccontateci dove tenete gli spazzolini, se li disinfettate tra virgolette ogni tanto oppure come fa un nostro ascoltatore che dice che li passa regolarmente con l'acqua ossigenata. Cercheremo di capire col professor Nanussi se queste cure per i nostri spazzolini vanno bene. Chiamateci e raccontateci anche ogni quanto lo cambiate e che cosa, quale indizio del vostro spazzolino vi spinge a farlo. Professor Di Pietro, con lei con gli spazzolini non ci farà giocare, ma ci farà fare una sorta di ginnastica facciale. Quindi lo spazzolino pulisce i nostri denti, ma forse anche cancella qualche ruga, previene qualche ruga. Assolutamente, possiamo usarlo come l'abbiamo già in bocca, quindi a questo punto abbiamo già lavato i denti, li abbiamo anche già sciacquati, quindi il nostro spazzolino è pulito. Il concetto è questo: noi dobbiamo usarlo dall'interno invece che spingere verso i denti per pulirli, quello l'abbiamo già fatto. Adesso spingiamo verso il labbro superiore. E quindi andiamo dal fondo della nostra bocca e piano piano spingiamo verso l'esterno, cioè facciamo una trazione sulla cute. Questo permette quindi di far arrivare più sangue alla nostra cute e soprattutto i muscoli di strecciarli un po'. Mentre facciamo questo dobbiamo però ostacolare lo spazzolino, cioè in pratica noi spingiamo verso l'altro ma la bocca deve cercare di spingerlo verso l'interno. Ecco come sta facendo adesso Nicoletta. Voglio dire ai radioascoltatori che Nicoletta lo sta facendo. Va bene, ok. Allora faremo anche un piccolo video per magari in chiusura di trasmissione, così i nostri ascoltatori potranno seguire gli esercizi che il professore Di Pietro ci ha suggerito. Poi magari dopo ne facciamo anche uno per la salute della postura, sempre usando lo spazzolino. Sempre usando lo spazzolino, ma per evitare il famoso, si dice così, no? Il codice a barre, quelle righette che ci sono intorno alle labbra e che in qualche modo sono abbastanza fastidiose, perché se si porta il rossetto va a finire lì e comunque non rendono bello il nostro sorriso. Ci sono degli esercizi? Guarda, il codice a barre non dipende dal labbro, ma dipende dalla gengiva che c'è sotto. Noi lo abbiamo infatti ad una certa età, quando si ritira fisiologicamente un pochino la gengiva e supporta un po' meno il labbro. Che cosa succede? Abbiamo questa pelle che serviva a coprire la gengiva, quella del labbro superiore, serve un po' meno, quindi inizia ad accartocciarsi un pochino. In pratica non bisogna tanto lavorare sulla cute, qualcosa si può fare, poi non è mia competenza, ci pensano chi si occupa di estetica, sicuramente cominciano a riempire un po' le labbra. Non è fisiologico, perché teniamo conto che è la gengiva e quindi anche i denti incisivi anteriori che cominciano a tornare un po' indietro. Molto meglio lavorare direttamente su gengiva e denti. Gengiva e denti, a proposito, professor Nanussi, proprio a volte spazzolando i nostri denti le gengive iniziano a sanguinare, rischio che sembra abbastanza frequente quando utilizziamo il filo interdentale, ma voi dentisti dite che anche il filo interdentale, al pari dello spazzolino e del dentifricio, è, anche poi parleremo del colluttorio, è indispensabile per una corretta igiene. Allora, professor Nanussi, come la mettiamo? E vogliamo parlare dell'errore più frequente che si fa nell'igiene orale a casa? Vedo sanguinare le gengive, mi fermo e ci sto più leggero per evitare di provocare sanguinamento. Questo determina soltanto l'accumulo della unica causa del sanguinamento gengivale, che è la placca batterica. Quindi, al contrario, più vedo sanguinamento, più devo insistere in quella zona con lo spazzolino, con le manovre corrette, che vanno sempre dalla gengiva verso il dente per evitare di scollare la gengiva dai denti, va piuttosto accompagnata verso i denti, dal rosa al bianco. Nessuno passerebbe la scopa sul tappeto, dal pavimento al tappeto, no? Sì, no, devo dire, è vero. E provvedere quindi a rimuovere la placca batterica. Se si resiste per una settimana con qualche disagio a essere un pochino più aggressivi sui tessuti che sanguinano, si avrà la bellissima sorpresa di ritrovarsi le gengive rosa corallo e aderenti al dente così come devono essere, con quella superficie a buccia d'arancia che è proprio quella sorta di trapuntatura di fibre che ha ancora la gengiva all'osso sottostante. È innamorato di queste gengive, trapuntatura. Allora, professor Nanussi, torniamo al nostro spazzolino. Guardi, osserviamolo, ci può dare degli indizi che riguardano il nostro modo di spazzolare i denti. Se lo spazzolino in poco tempo, in meno di un mese, diventa un po' tutto strotignacolo e le setole sono un po' saccagnate, significa che forse che la nostra spazzolatura è troppo aggressiva, è così? Un po' come succede con i tacchi delle scarpe, no? Se facciamo vedere al professor Di Pietro, tra l'altro, anche le nostre scarpe, lei professore ci dice, lei cammina in questo modo. Deutsch. La stessa cosa può capitare anche con il nostro spazzolino, quindi occhio a dove si consuma. Professor Annusi, una buona indicazione? Certo, perché in effetti, lo dicevamo prima, una buona igiene non è questione di forza, i nostri tessuti dei denti non sono in grado di resistere a un'azione eccessivamente brusca e avremo delle modificazioni del loro aspetto che sono evidenti a chiunque sia troppo brusco con la propria igiene orale, colletti esposti dei denti, denti sensibili, gengive che si ritirano un pochino. Allora, uno spazzolino consumato, a parte che potrebbe essere ancora comunque utile per la meravigliosa ginnastica miofunzionale che ci ha mostrato prima il professore, però a quel punto le setole sui denti fanno veramente poco. Se dovete cambiarlo prima di 2 o 3 mesi, badate un pochettino alla forza che applicate. E se per voi questo è un segnale, è una necessità per scaricare la tensione quotidiana, ci sono spazzolini con il manico flessibile, così provvedono loro a calibrare la forza. Cuore e denari. Gara del lancio del martello e in pedana l'atleta Fantozzi. Primo lancio di Fantozzi. Ragioniere, il diavolo non è poi così brutto come lo si dipinge, vero? Sì, ho buttato giù 20 chilometri come se fosse un bicchiere d'acqua. Mi sento tutti i muscoli sciocchi. Mai Fantozzi era riuscito a sfuggire alle sue mostruose iniziative, a cominciare dalla più agghiacciante, l'annuale sfida calcistica fra Scapoli e Ammogliati. Fantozzi strappa sempre un sorriso, e di sorriso vogliamo parlare oggi con due grandi esperti, il professor Nanussi e il professor Di Pietro. Entrambi ci aiuteranno a utilizzare gli strumenti che quotidianamente usiamo per l'igiene orale, anche per sciogliere le tensioni e per prevenire eventualmente qualche rughetta, che però ha anche il suo bello. Professor Di Pietro, diciamo la verità, sì. Lasciamo qualche rughetta. Sì, ci rende unici. Allora noi siamo unici e lo sarete anche voi chiamando l'800 24 00 24 raccontandoci anche naturalmente la vostra esperienza, i vostri dubbi. Professor Nanussi, noi eravamo arrivati allo spazzolino. Dove si tiene questo spazzolino? Nel bicchiere? Orrore, o vedo la sua faccia, vicino a quello del marito? Io detesto cordialmente il bicchiere degli spazzolini, mi ricorda tanto quello della dentiera della nonna, non va bene tenere che ormai vicino. Le nonne di domani non avranno più la dentiera. Non ci pensano nemmeno, voglio mettere i denti sui piatti. Comunque, lo spazzolino è un oggetto che è stato in bocca, è contaminato da batteri. E non scambiateli, mi raccomando. Per amor del cielo. E soprattutto non vanno tenuti in un ambiente eccessivamente umido, peggio ancora se a contatto uno con l'altro, con l'acqua che gocciola sul fondo del bicchiere, a mantenere quella bella situazione di igiene scarsa. Meglio tenerli in un ambiente asciutto e conservati separatamente uno dall'altro. Ci sono dei bellissimi raccoglitori che sembrano fatti apposta per non tenerli troppo vicini. Si disinfettano, come chiedono alcuni nostri ascoltatori. Qual è la cura per lo spazzolino? Basta lavarli sotto l'acqua dopo esserci lavati i denti, oppure ha bisogno di un trattamento un pochino più efficace? Le grandi epidemie del passato finivano con la pioggia. Sarebbe a dire che il migliore primo disinfettante è la diluizione. Allora, quando io ho sciacquato bene il mio spazzolino, di batteri ce ne sono veramente pochi. Se lo spazzolino si asciuga, grossi problemi di contaminazione non ce ne sono. Ovviamente, se lo disinfettiamo, meglio, perché no? L'acqua ossigenata può andare benissimo. Emilio, buongiorno, ci chiama da Monza, benvenuto a lei. Buongiorno a tutti. Buongiorno Emilio, allora. Innanzitutto cerco di farmi sorridere dalla vita, questo, anche se piove. Questa è una bella cosa, perché ovvio. Siamo noi che sorridiamo, no? Siamo noi il sorriso anche che possiamo portare nella vita, anche nella vita degli altri. Allora esatto. Emilio, dopo cerco di fare lo stesso con i miei 3 figli, sì. due dei quali hanno, mi dice il dentista, che è un grande esperto di relazione bocca postura piena, hanno problemi di deglutizione, cioè sì. Inghiottiscono male soprattutto la saliva. Sì. Questo movimento hanno quella che viene considerata la deglutizione infantile? Esattamente, penso proprio di sì. Questo movimento errato della lingua e delle labbra ha modificato soprattutto nella parte nei denti in sotto, diciamo, che sono gli incisivi e risultano troppo piatti, e per questo hanno dovuto mettere l'apparecchio per cercare di... Allora, ci spiegate un po'... Sì, questo può Influire anche sul fatto che dicono delle lettere, soprattutto la S e la Z, male? Allora, piano con la deglutizione infantile, che è quella che ho io, che mi rende comunque coltiva il bambino che c'è in me. Allora, si sopravvive con la deglutizione infantile, si possono però fare degli esercizi. Allora, intanto iniziamo a dire che cos'è. Quando si può provare bevendo un bicchiere d'acqua, guardate dove va la vostra lingua. È così? Perfetto. È proprio così. Professor proprio così. Di Pietro, è lei che è professor. È proprio così. Ma la deglutizione infantile, ci sono tanti tipi di deglutizione. La deglutizione è un aspetto molto importante della nostra vita, una cosa che facciamo migliaia e migliaia di volte al giorno. In questa deglutizione noi mettiamo in moto tantissimi muscoli. Ora, non mi dilungo su questo, mentre invece vorrei segnalare che non sistemare la deglutizione, alcuni tipi di deglutizione, ci manda incontro a dei grossi problemi di natura cervicale, sì. Cioè, ci sono delle alterazioni nella curva cervicale. Molte volte noi vediamo che perdiamo un po' la fisiologica lordosi cervicale, alcune volte può dipendere anche da una cattiva deglutizione. Gli esperti della deglutizione sono persone che noi consideriamo soltanto addette a come parliamo, in realtà invece si occupano di deglutizione, quindi qualche seduta dal logopedista in questo caso sarebbe eccellente, perché così risolviamo il problema prima di mettere mano a costose cure dentarie. E poi ricordiamoci che la lingua, no? Professor sì. Di Pietro, con la lingua possiamo fare anche degli esercizi per, no? Sì. Per rinforzare un po' la lingua, che ha una, sì. Tra l'altro è un muscolo fortissimo. Fortissimo, i muscoli poi alla fine, i muscoli che muovono la lingua, e per questo ci sono dei grossi problemi quando non chiudiamo bene la bocca, perché sì. Poi durante la notte la lingua fa il bite, cioè la lingua va a tappare il buco. Quando noi durante la notte dormiamo e ci stendiamo e quindi non scarichiamo più a terra le nostre forze, i nostri 70 kg al centimetro quadrato della bocca, sì. Ma li scarichiamo direttamente sulla bocca, sulla cervicale. La lingua cosa fa la notte quindi? Se c'è, manca un dente, va a infilarsi lì. La lingua batte dove il dente vuole. O dove non c'è. Professor Di Pietro, sì. Ci sono quindi degli esercizi che possiamo fare per la lingua? Assolutamente sì. Per esempio, cominciamo a contare i nostri denti con la lingua, con la punta della lingua, partendo dal molare superiore, destro o sinistro, poco come importa, vogliamo. E cominciamo a contarli. Non è come contare le pecore, non ci si addormenta. Dopo un po' vediamo che abbiamo un po' di dolore ai muscoli, addirittura della cervicale. Se non abbiamo nessun dolore, possiamo anche fare a meno di fare l'esercizio. Ma se c'è qualche dolore, sì. Immagazziniamo bene dov'è e diciamolo subito al nostro dentista o al nostro osteopata. Per quanto ho bisogno ancora di andare dal professor Nanussi, che ci deve raccontare rapidamente come scegliere il dentifricio. Ce ne sono di tutte le forme, per denti sensibili, gengive che sanguinano, sbiancanti, al fluoro, eccetera, e il colluttorio. Sì, no, sempre quale e quali preferire e quali evitare. Parto col minuto, vada. È un argomentone, ho visualizzato lo scaffale di un supermercato con tutti i prodotti che possono esserci, che lasciano nel dubbio a volte anche me davanti. Allora, dentifricio, innanzitutto, se non abbiamo un problema specifico per il quale il nostro dentista ci dà un consiglio specifico, un dentifricio al fluoro non fa male a nessuno, aiuta a prevenire la carie. Se poi addirittura è complessato con un polimero, paroloni, sa significare, se il fluoro è attaccato a qualche cosa che a sua volta lo fa aderire meglio ai denti o alle gengive, avremo una azione prolungata del fluoro in bocca. Questo come facciamo a capirlo? Lo leggiamo in etichetta o ci fidiamo? Si legge in etichetta, non si possono fare i nomi, ma ci sono tante marche che dicono il nostro fluoro si attacca ai denti. Allora, preferiamo quello che si attacca. Preferiamo okay. Quello che si attacca. Colluttorio. Il colluttorio può veicolare un po' di fluoro. Essenzialmente un colluttorio non è indispensabile nell'igiene quotidiana, salvo necessità specifiche. Allora, alcol, però, vero, dottore? Senza alcol, meglio, però. Senza alcol. Meglio senza alcol. Grazie al professor Di Pietro e al professor Nanussi, che dovranno tornare perché i nostri centralini sono andati in tilt. Grazie. Noi tra poco parliamo di un argomento che fa sorridere poco, che è il divorzio. Diventa più breve, ma sarà così. Cuore e denari. Facilmente mi innamoro, facilmente poi mi sbaglierò. facile, canta Renato Zero. Vedremo se è davvero facile. Giovedì scorso il Parlamento ha dato il suo ok definitivo al decreto legge 132. Si tratta del primo tassello della riforma della giustizia, che contiene anche alcune novità che potranno interessare chi, dopo aver scelto di separarsi, decide di andare fino in fondo e di divorziare. E per concludere questo percorso sarà sufficiente firmare un accordo nello studio di un avvocato o davanti al sindaco. Questo è il tema che vogliamo affrontare con voi in questa parte della trasmissione. 800 24 00 24. Raccontateci le vostre esperienze legate alle procedure di separazione e di divorzio, i vostri dubbi, gli aspetti che più vi sembrano critici, anche in merito ai tempi e ai denari necessari. Quindi fateci le vostre considerazioni, le fate anche attraverso i messaggi o Twitter e Facebook. In linea con noi è tornato a trovarci l'avvocato Gianetto Regassani, presidente e fondatore dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Buongiorno avvocato, bentornato. Grazie, buongiorno. In diretta dai nostri studi di Roma, quindi un po' come averla qua con me. È vero. Allora, avvocato, non tutte le criticità sono state risolte. Tanto per cominciare, non stiamo parlando del divorzio breve, che spesso abbiamo nominato anche in questa trasmissione. A questo punto ancora non siamo arrivati, i tempi restano quelli, si aspettano i 3 anni di separazione e poi, avvocato? Beh, e poi tutto avverrà nel chiuso degli studi legali, uno o due difensori potranno redigere il ricorso di separazione o divorzio, o meglio, più che ricorso, a questo punto una sorta di contratto da trasmettere poi alla Procura della Repubblica, che potrà eventualmente ratificare, quindi mandare in omologazione gli accordi, o trasmettere al tribunale questi accordi quando sono contrari agli interessi e ai diritti dei minorenni soprattutto, e a quel punto poi si fa l'udienza normale. Non è cambiato molto dal punto di vista dei tempi, purtroppo, e questa cosa mi dispiace, perché stavamo conducendo una battaglia di civiltà nel nostro paese, che era quella di ridurre al minimo i tempi, un po' come succede in tutta Europa. Purtroppo la legge sul divorzio breve si è impantanata, e qui, per cui secondo me parliamo di divorzio facile, ma i tempi, anche i costi, le parcelle rimarranno tali e quali, perché chiaramente gli avvocati faranno poi il cosiddetto contratto, il preventivo di massima con i propri assistiti, quindi non è detto che fare una separazione o un divorzio, un studio legale costi di meno, forse costa anche di più, perché per l'avvocato c'è una maggiore responsabilità. Devo dire che questo riconoscimento all'avvocatura di poter procedere nei propri studi è sicuramente un riconoscimento che dà lustro a questa nobile professione. Tuttavia io penso che sarebbe stato più opportuno prima obbligare gli avvocati a specializzarsi in questa materia e poi dare a loro questa importanza. Ecco, mi ha rubato un po' la domanda, perché tutti gli avvocati o solo quelli che si occupano, gli avvocati civilisti, matrimonialisti, potranno... In Italia non esiste la specializzazione. Ecco, un avvocato è un tuttologo in Italia, poi è il mercato che ti rende fondamentalmente esperto in una determinata materia. Sì, la pratica anche, no, avvocato? La pratica. Il fatto che ci sono avvocati che seguono, esatto, più il penale, altri il civile, il tributario, non tanti... Virtualmente esistono le specializzazioni, perché un vero penalista non si sognerebbe mai di fare uno sfratto, e un civilista non si sognerebbe mai di andare a fare una causa di diritto internazionale. Tuttavia, teoricamente è possibile per un avvocato italiano ancora oggi fare di tutto di più, e questa è una cosa indegna per una professione difficile e socialmente importante come quella del difensore. Quindi credo che prima di dare agli avvocati questi poteri e queste patate bollenti che servono solo a deflazionare il carico di lavoro dei giudici, ma non a risolvere i problemi dei cittadini, bisognava quindi obbligare tutti gli addetti ai lavori a specializzarsi. Comunque io voglio dire, saluto con soddisfazione almeno un impegno da parte del governo di snellire le procedure, però non bisogna più pensare di fare decreti a costo zero, perché sul diritto di famiglia bisogna investire moltissimo, almeno come si investe nel penale. 800 24 00 24, se volete parlare con noi, se volete porre le vostre domande al nostro esperto, raccontarci quanto vi è costato in termini anche di denari e di tempo questo iter. Avvocato Gassani, torniamo ai costi. L'iter meno costoso sembrerebbe essere quello di fronte al sindaco, 16 euro e un'attesa di soli 30 giorni, naturalmente dopo aver superati 3 anni di separazione. Però sono davvero rari i casi in cui si potrà risolvere l'intera faccenda in questo modo. Ci spiega per bene? Sì, perché in effetti per andare a separarsi o divorziare davanti al sindaco bisogna essere coppie e che non hanno più figli da mantenere. O non hanno mai avuto figli, non ci sono trasferimenti immobiliari, non c'è niente, si tratta solamente di una decisione tipica 0-0 e tutti a casa, e a quel punto credo che sia anche giusto che ci sia una rapidità e un costo zero di questa procedura. Tuttavia fa impressione che nel nostro paese un matrimonio possa andare a finire davanti a un sindaco non tanto per celebrarlo ma semplicemente per firmare un modulo e andare via, insomma una cosa molto triste. Invece se ci sono dei figli, lei lo accennava, dei figli di cui noi ci dobbiamo ancora occupare, potrebbero essere anche figli maggiorenni, vero avvocato? Se ci sono figli minorenni, figli portatori di handicap, figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, bisogna... gli avvocati possono intervenire, ovviamente quando c'è un accordo, perché altrimenti c'è la separazione giudiziale o il divorzio giudiziale che ti aspetta se non ci sono accordi, quindi dobbiamo presupporre che ci sia un accordo su tutto, cioè le coppie vanno negli studi legali quando ormai hanno già chiarito le loro posizioni, perché appena c'è qualcosa che non va si chiede immediatamente l'intervento del tribunale, quindi devo anche sperare che tante coppie abbiano anche l'intelligenza di mettersi d'accordo in modo da far presto e non litigare per anni nei tribunali, su questo non c'è dubbio. Quindi deve essere una coppia che ha già superato i 3 anni di separazione e che vive, sembra strano dirlo, in una separazione, in un divorzio ed amore d'accordo su questo, tutte e due vogliono il divorzio e tutte e due. Beh, molte volte la gente non vuole fare la separazione giudiziale perché i costi sono notevoli e anche perché poi lo stress emotivo è terribile. Cioè fare una causa giudiziale in Italia con i tempi, con i vari gradi di giudizio, con la violenza di questa procedura, con i minori da contendersi, beh, è come andare in guerra. La gente ci pensa e arriva soltanto alla separazione giudiziale come ultima spiaggia, per fortuna, perché altrimenti sarebbe una carneficina di famiglie, perché si arriva veramente a farsi del male infinito in queste cause. Quindi, avvocato, resta che l'unico caso in cui si finisce davanti al giudice è quello in cui i propri due ex non riescono a trovare un accordo. Ecco, puoi non essere d'accordo sull'assegno di mantenimento, puoi essere non d'accordo sul calendario del diritto di visita dei due genitori, quindi l'affidamento condiviso o monogenitoriale in qualche volta. Si può non essere d'accordo sulla comunione legale dei beni, cioè quelli, i soldi che sono rimasti in banca, sugli oggetti, sui mobili di casa, ci sarebbero mille ragioni per andare a fare una separazione giudiziale. Devo dire che la gente comincia anche a frequentare psicoterapeuti, mediatori familiari, comincia anche a prepararsi maggiormente allo stress, al trauma della separazione e del divorzio. Prima si passava dalla vita normale direttamente in tribunale, oggi la gente è molto più informata, quindi è più facile trovare accordi. Quindi, avvocato, prima di dare la parola a Luca che ci chiama dalla provincia di Roma, che intanto saluto. Grazie Luca, 800 24 00 24. Vuole dare un consiglio? Ci sono degli ascoltatori che mi stanno scrivendo via mail e via messaggio che si stanno separando. Un ascoltatore ha terminato i 3 anni di separazione, un'altra ascoltatrice mi dice che del divorzio e della separazione gli è proprio pesata sul piano affettivo, emotivo, è cambiata la vita. Allora non ci sono consigli da dare, ma avvocato io vorrei che lei desse magari qualche indicazione a chi sta affrontando questo percorso della vita, che è un percorso molto faticoso in termini di cuore e di denari. Quali sono gli errori da evitare, quali sono le difficoltà che con un po' di buona volontà o chiedendo magari aiuto a qualche professionista si possono evitare o superare senza tanti traumi? E prima di sfasciare una famiglia bisogna pensarci mille volte. Ecco. Le crisi, i litigi, gli interventi a gamba tesa delle famiglie di origine, queste non devono avvenire. C'è la suocera, il suocero, i fratelli, non bisogna teneteli fuori, perché anche senza volerlo diventano i primi nemici della stabilità di una coppia. Anche la migliore madre può diventare una pessima suocera. Quindi attenzione a non mettere in mezzo parenti che poi magari non conoscono tutti i dettagli e tutti i particolari, conoscono solo una verità. Quindi pericolosissimo questo. Secondo, non farsi scudo dei figli. Guai a pensare che un figlio sia una merce di scambio o un'arma per farla pagare al marito o alla moglie che ti ha tradito. Questa è una cosa vergognosa. A me veramente dispiace, essendo anche un genitore, vedere dei bambini trattati come il bottino di guerra, come qualcosa da espropriare all'altro. È una cosa terribile. Anche un avvocato cinico che fa questo da 30-40 anni non può abituarsi a questa idea. Quindi credo che siano soprattutto i genitori e non tanto i tribunali o gli avvocati a dover tutelare i figli, siano prima loro a fare questo passo di responsabilità. Poi credo che ci sono tantissime figure alternative agli avvocati, ai magistrati, che sono gli psicologi. Io credo che ogni tanto mettersi in discussione umilmente è importante per tutti. Non bisogna pensare sempre di avere ragione. Cominciamo anche a pensare che probabilmente anche dall'altra parte ci sono le ragioni importanti, ragioni di fondo. Molte volte mi accorgo dalle carte che molte coppie ce l'avrebbero potuta fare se si fossero messe in discussione, perché magari c'è gente che si separa e si ama ancora. Ci sono questioni di orgoglio allucinanti. Non bisogna far prevalere l'orgoglio su un progetto di vita così importante. Lo dico come avvocato, lo dico come genitore, come marito. È come sì, perché credo che la cosa peggiore che si possa fare è far vedere a un figlio il padre o la madre che fa le valigie e se ne va, e che finisce quello schema familiare su cui si è investito tutto. Quindi è chiaro che nei casi estremi dove c'è una incompatibilità insanabile e la separazione diventa addirittura una medicina, però in tantissimi altri casi, e lo dice un avvocato matrimonialista, sembra veramente un fatto clamoroso, in tantissimi altri casi bisogna pensarci, e bisogna pensarci anche prima di sposarsi, perché io non mi preoccupo tanto del numero esorbitante di separati e divorziati, mi preoccupo dei matrimoni usa e getta, di quei matrimoni fatti in maniera irresponsabile, semplicemente perché il matrimonio è ancora per qualcuno uno status symbol, o perché bisogna rispettare il cosiddetto orologio biologico. Bisogna sposarsi se vale la pena, altrimenti non è il matrimonio certamente un obiettivo di vita alla cieca, perché il matrimonio cambia la vita, assolutamente. Appunto, nel bene e nel male. Sì, ma io ho scritto I perplessi sposi, il titolo la racconta ironica, lunga, ecco, dice esattamente questo. Sono preoccupatissimo per gli incoscienti che si sposano, gente che non si conosce o che si è conosciuta con le agenzie matrimoniali o che si è conosciuta in chat e poi arriva all'altare. So, queste sono persone che meriterebbero di fare lavori socialmente utili, perché vanno a ingolfare i tribunali e a rovinare i figli. Andiamo a Luca, andiamo nella provincia di Roma, ci sta aspettando Luca. Buongiorno Luca, eccoci qua. Buongiorno dottoressa Carbone e alla signora Rosciani. Deborah non c'è oggi, è domani, ma la saluto per lei. Oggi la sentirò e le dirò che la saluta. Grazie Luca. Allora, senta, io sono in una casa di separazione consensuale, però non mi sono affidato un avvocato perché purtroppo siamo tutti e due senza lavoro. Sì. Quindi ci siamo affidati un patrocinio. Siamo in consensuale tutti e due e volevo sapere, con queste norme che hanno da adesso che dice sì, che si può andare dal sindaco, volevo sapere se cambia qualcosa, se la cosa diventa più veloce o no. Grazie. Non abbiamo figli, premetto. Non avete figli, grazie Luca. Avvocato, queste indicazioni le sono sufficienti per rispondere a Luca o abbiamo bisogno di qualche informazione in più? Ma pagheranno 16 euro, vanno dal sindaco e risolvono il loro problema, perché il signore dice di non avere figli, quindi insomma il problema si risolve immediatamente senza costi, se non, al di là dei 16 euro non c'è altro. Roberto ci scrive un sms dicendo che lui continua a sentire notizie contrastanti. Ci potete dire una volta per tutte se il divorzio breve c'è o non c'è? Non c'è. Non c'è. Non c'è. Ecco. Direi che forse ha un po' alleggerito il lavoro dei tribunali. Gli unici che possono esultare sono, a mio parere, i tribunali. Tutto il resto rimane come prima, gli avvocati sono più responsabilizzati, la gente continuerà ad aspettare 3 anni, ma io sono convinto che il governo comunque prima o poi sbloccherà la situazione, perché sarebbe clamoroso che un governo di giovani, di tecnici, di persone che hanno voluto e vogliono cambiare questo paese, poi mantengono in vita ancora questa via crucis della separazione. Pensiamo che in Europa la metà dei paesi l'hanno già abrogata addirittura la separazione, non esiste, e ecco perché gli italiani vanno all'estero a divorziare. Il turismo divorzile è un'altra piaga, è un'altra vergogna del nostro paese. Cioè, gli italiani per definire il loro matrimonio sono costretti ad andare in Romania, sono costretti ad andare in Spagna, in Germania, in Inghilterra, attraverso una procedura assolutamente regolare e lecita, perché è possibile da cittadini dell'Unione Europea scegliere, dopo una residenza di 6 mesi in un determinato posto, un magistrato straniero, e questo è uno schiaffo in pieno volto all'Italia. Perché questa notizia degli italiani che sono poi figli della culla del diritto mondiale, che sono costretti ad andare a divorziare in Romania, ha fatto il giro del mondo. Io ricordo che il Times riportò in prima pagina proprio l'inchiesta della mia associazione, l'AMI, perché non volevano credere gli americani che gli italiani, che potevano avere 1000 difetti, ma come giuristi siamo sempre stati invidiati da tutti, non siamo riusciti a contemplare una legge sul divorzio che facesse presto. Quindi io credo che da questo punto di vista il governo, il Presidente del Consiglio, il Ministro sicuramente lavoreranno con le commissioni, perché non è più possibile questo sconcio in maniera più assoluta. I tempi sono maturi. Marino ci chiama da Milano, vediamo se riusciamo in un minuto a chiudere. Marino, benvenuto, grazie. Buongiorno a tutti, io volevo solo dare man forte a quanto diceva l'avvocato delle lungaggini. Quindi fare l'avvocato difensore dell'avvocato, no, in fondo. No, mi permetterei. Beh, no, bello, mi piace. Io ci ho messo 7 anni a separarmi dalla mia moglie dal 2006, con delle vicissitudini appunto abbastanza terribili, perché ci sono in mezzo 2 bellissime ragazze oramai, vabbè, oramai diciamo è acqua passata, però posso dire che è l'assurdità di aspettare 7 anni prima di poter dire di essere libri, o non tanto di rifarsi una vita, perché quello, vabbè, non era un'esigenza prioritaria nell'imminente. Ma però Marino, lei ha mai accarezzato l'idea di andare all'estero? No, perché faccio una professione che, voglio dire, non mi permette neanche di allontanarmi troppo, poi non ho mai approfondito la cosa e, vabbè, insomma, non l'ho mai accarezzato, sinceramente, non ci ho neanche mai pensato, sinceramente, questo è un po' per, non ho mai approfondito la cosa, so solo che dal 2006, da quando successe, diciamo, il fattaccio, la sentenza di divorzio l'ho avuto 2 anni fa, per cui questo sul tribunale di Milano, con continui rinvii, cioè noi ci sentiva il giudice, poi ci rimandava 7 mesi per sentire altre stupidate, secondo me, perché c'è lì poi le due parti riproducono i vari testimoni. E non si finisce mai, lungaggini su lungaggini. Avvocato, chiudiamo con un rapidissimo commento alla storia di Marino, che purtroppo è una storia abbastanza comune. È una storia comune dalle Alpi alle Sicilie, pure Milano è un tribunale importantissimo che fa scuola al diritto di famiglia. Mi sembra strano che sia stata così lunga questa via crucis, però indubbiamente è un problema nazionale, non è un problema di questa o di quella città. Io credo, ecco, che dobbiamo veramente tutti quanti noi lavorare, innanzitutto per fare in modo che la famiglia non si ammali. Perché giochiamo di prevenzione, cerchiamo di salvaguardare soprattutto le giovani coppie, e poi soprattutto quando si arriva purtroppo alla fase patologica, quella irreversibile, cercare meglio di fare un'anestesia al dolore. Grazie avvocato per essere stato con noi, ci sentiamo prestissimo, buona giornata anche a lei. Grazie a Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi e a Marco Lombardo. Io torno domani, Deborah sarà di nuovo con noi venerdì, buon pomeriggio.